Anche sul lato più hard, diciamo, del social shopping, la transazione economica per gli acquisti fatti, perché di questo si parla, ci sono molte direzioni innovative. Una di queste è Pay with a Tweet, paga con un tweet, un sistema di pagamento sociale e virtuale ideato da Innovative Thunder che salda vendite e promozione. Non si paga quindi, ma si fa un tweet, cioè si fa passaparola, si genera buzz. Per ora libri, birre e dischi, ma il sistema promette bene. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo in rete? Oggi non poteva che essere così su social shopping e dintorni. Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Buon pomeriggio a tutti. Satoshi Nakamoto è il nickname di un anonimo studente giapponese che nel 2009 ha ideato Bitcoin, la prima moneta peer-to-peer, nata e diffusasi in rete come strumento di baratto tra gli hacker. Generata dagli utenti, che in gergo si chiamano i minatori, attraverso un programma open source, Bitcoin utilizza codici crittografati che legano indissolubilmente ogni moneta al legittimo proprietario, che può spenderla solo una volta. Di qui la sua prima caratteristica, l'impossibilità di falsificazione. Ma non è l'unica, Bitcoin si implementa grazie alla rete, le transazioni viaggiano da PC a PC senza intermediazioni. Non esiste in pratica un ente centrale, banca o autorità governativa che sia, che possa manipolarla o inflazionarla. Chiunque dunque può comprare le Bitcoin, tenerle nel suo portafoglio virtuale e utilizzarle per acquisti online. Grazie ai costi nulli, l'elenco delle imprese, soprattutto start-up e liberi professionisti che le accettano, è in continua espansione. Siti per il giardinaggio, aste online, negozi virtuali di libri e videogiochi. Allo stato attuale una Bitcoin vale 9,22 euro e il valore complessivo generato dalle sue transazioni si attesta oggi intorno ai 32,6 milioni di euro. E se così stanno le cose, la diffusione di questo nuovo concetto sociale di moneta potrebbe avere sul sistema finanziario lo stesso effetto dirompente che il Web 2.0 ha avuto sull'editoria. E infatti non a caso la finanza mondiale, i governi, anche i servizi segreti se ne interessano con preoccupazione. Grazie Alessia. Patrizia, tiriamo le somme. Sono in molti a scommettere sul social shopping. Il sociologo Giampaolo Fabris lo aveva previsto, il marketing è morto, al suo posto c'è il societing. Partiamo da un dato, lo shopping online è in crescita. Nel 2010 sono 9 milioni di italiani, per esempio, che hanno fatto almeno un acquisto via e-commerce. Si tratta di integrare i processi di acquisto con i social network e con i commenti sul web. La parola di un amico vale più di quella di un'azienda o della pubblicità. Ormai questo è un assunto acclarato. Dal marketing relazionale siamo passati al marketing collaborativo, a quello social, in pieno paradigma societing. L'offerta ormai conta sulla partecipazione della domanda, è diventato un implicito, con nuovi equilibri di convenienza in cui il prezzo è una variabile dipendente dal numero di consumatori. I consumatori a loro volta sono acquirenti e promotori con i loro click condivisi sui social network.